Quella che presentiamo oggi è l'inchiesta sociale sulla città metropolitana di Bologna ed è un lavoro che è stato voluto dalla CGIL di Bologna, di Imola, dall'Arci, da Piazza Grande e dalle associazioni studentesche della città. Il lavoro si è essenzialmente spinto per cercare di rispondere a una domanda, cioè qual è il ruolo del lavoro nella costruzione delle nuove diseguaglianze. Abbiamo provato a rispondere a questo quesito, che non è esattamente banale, rilevando oltre 6.000 questionari. Oggi vediamo una prima presentazione appunto dei dati ricavati da questi questionari, che sono stati rilevati essenzialmente puntando a costruire dei gruppi, no? A cercare di individuare quali sono le linee di frattura che caratterizzano appunto la diseguaglianza nel bolognese. E per provare a dare quella risposta, appunto, qual è il ruolo del lavoro, quello che emerge essenzialmente è che è un ruolo di secondo piano, ovvero emerge come la proprietà sempre di più contribuisce a definire l'accesso ai servizi, concorre a definire quello che è l'approccio all'esigibilità dei diritti. Lo vediamo con l'istruzione: chi è più ricco tende ad andare in scuole che presume siano migliori, valutando magari la reputazione, valutando il fatto che nella scuola ci siano persone più simili a quelle della famiglia di origine. Ma abbiamo anche visto come ad esempio l'esercizio del diritto alla salute, l'accesso ai servizi per la salute nel bolognese si differenzia molto. I tempi di attesa sono quello che più spesso manda le persone verso il privato e, se non puoi permettertelo, i tempi di attesa sono ciò che in qualche modo scoraggia o perlomeno favorisce la rinuncia e il rinvio della cura e delle prestazioni. Il 56% tra chi è più povero ha rinunciato alle prestazioni. Questo qua è rilevante perché, appunto, se andassimo ad allargare il campione, introducendo magari anche un discorso di rappresentatività del campione, quello che troveremmo è probabilmente delle distanze ancora maggiori. Vediamo poi come il ruolo della famiglia incide, visto che continua ad essere una colonna nella domanda ma anche nell'offerta di servizi, e che però non offerta di servizi che è tremendamente diseguale. La possibilità che hanno i pensionati e le pensionate di supportare anche economicamente i loro figli, appunto economicamente con regolarità, ovviamente deriva dal fatto che possano permettersi questo sostegno, però è un sostegno che è necessario per i lavoratori e le lavoratrici, che invece vediamo hanno bisogno di sostegni in casa, babysitter, colf, che però sono supporti e sostegni che inevitabilmente, essendo cercati e trovati sul mercato, sono suscettibili della condizione economica di partenza. Quindi ecco, se il lavoro deve ritornare ad essere quel dispositivo che compensa la diseguaglianza dovuta alla proprietà, quella di oggi è sicuramente una giornata che ci aiuta a tracciare una linea di lavoro. Non la linea di lavoro, ma insomma una linea di lavoro che è quella che abbiamo costruito insieme con tutte le associazioni, oltre alla CGIL, che hanno promosso questa inchiesta. L'esigenza di questi numeri nasce da un bisogno specifico, che è quello di ricostruire un discorso attorno ai dati che sono disponibili sulla città di Bologna, ma connessi tra loro. Le banche dati ufficiali, statistiche ufficiali, quelle che ogni anno noi commentiamo con gli osservatori sulla città metropolitana, forniscono ognuno un pezzettino. Quello che noi proviamo a fare oggi è ricostruire una narrazione che ci permette di interrogarci e di andare un po' più in là rispetto a quello che è l'informazione data dal dato specifico. Se noi vediamo che nel bolognese si sta evidenziando una dinamica di deindustrializzazione, cioè soprattutto in Bologna città e nella zona dell'Appennino, e questo lavoro viene sostituito con il lavoro nei servizi del privato, essenzialmente alloggio, ristorazione, commercio, ecco, quello che andiamo a vedere oggi è che quel mondo del lavoro non compensa. È un lavoro che ci interroghiamo addirittura se serva davvero, perché non riesce più a ricoprire quel ruolo che era quando appunto il lavoro era un qualcosa che ti permetteva non solo una vita dignitosa, ma anche di contribuire allo sviluppo di una comunità intera. E vediamo che questo succede sempre meno. Quindi l'obiettivo qual è? Andare a identificare anche quelle linee di frattura che vanno a incidere sul mondo del lavoro, che non è più un mondo del lavoro coeso, sono tanti mondi del lavoro, e questo va a consolidare le linee della diseguaglianza che sono in realtà preesistenti, che però nel mercato del lavoro si consolidano e si estendono.